per loro la camera è un'arma. Quindi il tentativo di Mohamed era di fare una riflessione sulla lotta popolare palestinese e sull'autopresentazione dei palestinesi nei film che sono stati appunto fatti della sezione cinema dell'OLP, che prima si chiamava Palestine Film Unit fino al 70, che era quando il quartiere generale era in Giordania. Poi dopo il 70, il settembre nero, il quartiere generale dell'OLP era in Libano, a Beirut, e lì si è formato il Palestine Film Institute, che era parte di quello che si chiamava Unified Information, che raggruppava la radio, un quotidiano, una rivista culturale, la sezione foto e anche film, appunto. Quindi questo film Off-Frame è andato per mesi, anzi anni, in ricerca in vari archivi in tutto il mondo per ritrovare opere di registi militanti del cinema rivoluzionario internazionalista, ma anche dei film palestinesi che erano tutti nell'archivio dell'Istituto di Cinema, che però nell'82 è stato bombardato durante l'invasione israeliana in Libano, in parte distrutto, in parte saccheggiato dai israeliani che sono entrati nella città. Importante per Mohamed, anche per noi, è che si ricostruisce una cornice storica all'interno della quale si è svolto la lotta, che rinnova la memoria, invita a meditare criticamente su quanto è stata la narrazione palestinese in questi anni. Una frase cardine è una frase che dice Arafat in una intervista del 71: noi eravamo rifugiati senza case, però la rivoluzione ci ha fatto combattenti per la liberazione della propria terra, ma anche per un embrio di un futuro Stato laico e democratico. Okay. Ci racconti anche del Cineforum Palestina? Sì, il Cineforum Palestina ormai è arrivato al sesto anno e è una iniziativa che sto curando appunto dal 13 insieme alla rete romana di solidarietà col popolo palestinese, che dall'inizio ha aderito a questa iniziativa di far conoscere la cinematografia palestinese qui, perché insomma l'impossibilità di vedere la produzione cinematografica di moltissimi giovani registi, ma anche di quelli già più assestati come Mai Masri, come Rashid Bashaoui, come Michel Clancy, ma c'è un gran numero della nuova generazione di oggi 30, 40 anni o anche più giovani. E questo è un dato interessantissimo: più della metà dei cineasti palestinesi sono donne. Sì, sì. Esiste fino anche un festival di cinema delle donne che si chiama Shashar. Comunque, tentativo di far vedere che cosa che appunto viene soppresso come un tentativo di cancellare la memoria storica collettiva, ma anche l'identità, perché chiaramente cultura e cinema in particolare sono parte di una identità, cioè di proporre a un pubblico che normalmente non ha poco o niente accesso a conoscere la produzione culturale palestinese, di colmare trasformare questo questa carenza. Sì, questa carenza, facendo vedere ogni primo giovedì del mese all'archivio audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico in via Ostiense un film palestinese, di un regista palestinese, e spesso, se non sempre, abbiamo un collegamento Skype col regista o la regista per rispondere anche alle domande del pubblico e spiegare il retroscena del film che abbiamo proiettato. Benissimo. Allora ricordiamo l'appuntamento con Off-Frame aka Revolution Until Victory di Mohanad Yacoubi a Roma, all'archivio audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico, Cineforum Palestina, il 7 giugno. Un saluto e un ringraziamento alla regista Monica Maurer. Monica, un abbraccio, a risentirci presto. Grazie, alla prossima. Ciao. Un abbraccio. Siamo con l'artista Alice Pasquini per parlare del Civita Street Fest a Civita Campomarano, provincia di Campobasso, dal 7 al 10 giugno. Alice, ben trovata. Ciao, buongiorno. Ci racconti? Sì, allora questo è il terzo anno, la terza edizione di un festival che appunto più che uno street art festival vuole essere proprio una festa per questo paese, che è un borgo meraviglioso molisano, dove c'è un borgo medievale, quindi con un castello angioino, è veramente un posto da riscoprire, che però sai, come tanti paesi bellissimi in Italia, ma anche in Europa, insomma, purtroppo stanno cominciando a spopolarsi. Quest'anno ci saranno quattro artisti che lavoreranno in grandi dimensioni su delle pareti, ma anche con installazioni nei vicoli del paese, le signore come ogni anno che cucinano nelle loro case e poi danno da mangiare le pietanze tipiche, e tutti gli ospiti come DJ Graf, Chef Rubio, tutti i vari amici del festival che vengono proprio perché sposano questa causa, facendo dei concerti nei luoghi, ma soprattutto lavorando con la popolazione. Diciamo che tutto il festival è per la popolazione e soprattutto per la resistenza di chi, nonostante sai, il paese stia sparendo, le scuole non ci sono più, però rimane legato fortemente alla propria terra. E tutto questo a me mi ha commosso profondamente. Devi sapere che il festival, io non volevo fare assolutamente un festival di street art, ce ne sono tantissimi, ma tutto ciò è nato per una pura casualità. Cioè, 4 anni fa io ero in America a dipingere e mi scrive questa ragazza della Proloco, Vincenzo Cuoco, che è il famoso illuminista italiano che era nato a Civita Campomarano, dicendo: io ho questo sogno, piacerebbe averti qua a dipingere. E io rispondo: non sai che lì c'è nato e cresciuto mio nonno, che era il medico del paese. A quel punto lei mi risponde: ma non sai che mio nonno andava con tuo nonno e cavallo, eccetera, eccetera. E da lì io sono tornata a Civita, che non andavo da quando ero piccola, e ho trovato questo posto ormai quasi disabitato. Cioè, sulla carta sono 400 abitanti, in realtà insomma un centinaio. Questo andava a dipingere in tutta la parte abbandonata del paese, che per un artista è una cosa meravigliosa, veramente scenografica, no? E è successo che dopo questo mio intervento, a seguito di alcuni articoli, sono cominciati ad arrivare i turisti a Civita Campomarano. Era facilissimo tempo che non si arrivava, e quindi la popolazione ha visto, diciamo, la possibilità per la prima volta, no, di resistere, e quindi di poter portare avanti l'idea di ridare vita a questo luogo. Quindi adesso è stata una macelleria, una gelateria, piano piano, diciamo, tutti gli artisti che sono passati dal festival, che ormai sono veramente tanti, da 6 continenti, da tantissimi paesi e da oltre 6 nazionalità, e quindi diciamo che il paese sta ricominciando a vivere. Sì. Senti Alice, come sarà strutturata in base anche a tutte le discipline artistiche le giornate? Allora, c'è un fitto programma che si può vedere sul sito, che è civitastreetfest.it. Il nome del festival viene dal dialetto, quindi loro Civita lo dicono Civita. E su questo sito c'è tutto il programma con tantissimi eventi, a partire, diciamo, dai tour dei muri, le passeggiate ecologiche, il cibo. Quest'anno abbiamo anche la proiezione insieme al Molise Cinema del film di J.R. Agnès Varda, che parla appunto dei villaggi in Francia, di come, no, le piccole realtà poi a volte rimangano completamente fuori da quella che è la scena nazionale, no? E, però appunto con questa idea che si possa resistere. Verranno anche i Tête de Bois a fare un concerto acustico per i vicoli. Abbiamo appunto DJ Graff che viene e suona anche i vecchi vinili della discoteca, no? Quindi fa degli scratch, è tutto un po' l'arte contemporanea però a servizio delle tradizioni, quindi anche i visitatori quest'anno potranno entrare veramente nelle case degli anziani. Ci sono dei corsi di cavatielli, che è la pasta tipica, ci sono dei corsi di merletto, e quindi faremo dei tutorial anche su YouTube, perché veramente l'idea è quella di conservare tutto quel patrimonio culturale che altrimenti purtroppo sparirà insieme alla popolazione più anziana di questi posti, no? Però sì, in un luogo dove non ci sono tanti mezzi, veramente un paese intero che accoglie una festa. Ci sono stati dati a disposizione oltre 60 muri e quindi diciamo che ogni anno è sempre più una festa della comunità. Sì. E i visitatori arrivando lì, in questo posto meraviglioso, troveranno appunto il modo di perdersi per i vicoli e di incontrare tantissime attività e di stare a contatto sia con gli artisti che lavorano, ma anche con tutte queste spontanee forme poi di festa che si creano. Hai citato prima la Francia, mi è venuto subito in mente il documentario di Agnès Varda, Visage Village. Loro sarà proiettato infatti questo anno il 9 sera, perché era appunto una cosa molto affine a quello che noi stiamo facendo da anni a Civisa. Sì, sì, sì. Bene, i riferimenti sono tutte gratuite, sono tutte cose a sottoscrizione, anche diciamo le cose da mangiare eccetera eccetera, quindi diciamo veramente Civisa accoglie un po' tutti i visitatori per entrare proprio nello spirito di questa grande festa. Bene, allora i riferimenti ce li hai dati tutti. Ricordiamo il Civita Street Fest a Civita Campomarano, provincia di Campobasso, dal 7 al 10 giugno. Un saluto e un ringraziamento ad Alice Pasquini, che è un po' l'anima di questa festa. Alice, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Siamo con Luca Raffaelli, direttore artistico della Città Incantata 2018, quarto meeting internazionale dei disegnatori che salvano il mondo, a Civita di Bagnoregio, provincia di Viterbo, dall'8 al 10 giugno. Luca, ben trovato. Ciao, buongiorno. Ci racconti? Racconto sì. Dunque, ci sono tante cose da raccontare, partendo dal fatto che a Civita di Bagnoregio ci sarà molta plastilina quest'anno, a cominciare dal fatto che la masterclass che ormai tradizionalmente inaugura la manifestazione venerdì alle 17 è del grandissimo Peter Lord, il creatore dell'Art Nation, lo studio di Bristol di Wallace & Gromit, Gallina in fuga, I primitivi, Shaun alla pecora, e insomma tutti i personaggi creati in plastilina, e gli spiegherà proprio questa tecnica, come si fanno a creare i personaggi, come si fanno ad animare in film che poi vengono distribuiti e hanno successo in tutto il mondo. La sera avremo la proiezione dei primitivi e poi la presentazione su grande schermo a Bagnoregio di tutte le iniziative che si svolgeranno tra sabato e domenica, quando la manifestazione si chiuderà alle 13. Comincio a dire qualche grande evento? Beh sì, raccontaci un po' come sono strutturate le giornate. Allora, le giornate sono, in pratica la giornata di sabato vede un sacco di ospiti che si confronteranno di fronte al pubblico raccontando la diversità del proprio stile, del proprio lavoro, della propria tecnica, perché avremo animatori appunto di plastilina che dialogheranno con autori di fumetti, storyboarder che parleranno con creatori di personaggi disegnati, insomma tutte le differenze artistiche che si incontrano e che secondo la filosofia di questa manifestazione salvano il mondo. In particolare poi a mezzogiorno

Tutto questo è proprio nel segno della nostra manifestazione, che vedrà peraltro la collaborazione in atto, in disegno e la realizzazione di opere durante tutta la manifestazione e di opere collettive, proprio a dimostrazione che l'arte può salvare il mondo creando delle armonie meravigliose. Benissimo. Allora ricordiamo la Città Incantata 2018, quarto meeting internazionale dei disegnatori che salvano il mondo a Civita di Bagnoregio, in provincia di Viterbo, dall'8 al 10 giugno. Un saluto e un ringraziamento al direttore Luca Raffaelli. Un abbraccio, a risentirci presto, Luca. Grazie e arrivederci a Civita di Bagnoregio, spero. Ok, a presto. Grazie, ciao. Siamo in collegamento con il centro sociale occupato Ricomincio dal Faro per parlare della proiezione del film La Bella Gente di Ivano De Matteo, in programma venerdì 8 giugno. Ben trovato. Sì, grazie Federico per l'attenzione. Sì, diciamo, abbiamo deciso di fare questa proiezione come diciamo suggello alla fine della Rassegna Voce Volto per quest'anno. Diciamo, la Rassegna Voce Volto finisce venerdì 8, poi probabilmente faremo delle cose all'aperto per luglio, ma ancora siamo in trattativa, diciamo. Okay. E quindi di solito la Rassegna Voce Volto si svolge il giovedì, però chiaramente noi eventi speciali, dove ad esempio c'è l'incontro con il regista, come in questo caso con Ivano De Matteo, cerchiamo sempre di farlo o il venerdì o il sabato, quindi venerdì 8 alle ore 20:30 ci sarà questa proiezione del film di Ivano De Matteo, che ha una storia particolare. Questo film, come tu ben sai, ha raccontato anche, diciamo, diverse volte della sua trasmissione. Sarà presente Ivano alla fine del film per parlare del suo cinema e del film, di questo film in particolare. E ci sarà, diciamo, un presentatore d'eccezione, credo. che ormai è di casa. Sì, beh, sì. Si può dire, si può dire. Si può dire quindi che Federico presenterà la serata, quindi diciamo questo gemellaggio tra Ricomincio dal Faro, Ivano De Matteo e tutta scena. Sì. Sì, sì. Per chi ci ascolta, raccontiamo anche della rassegna Voce Volto. Sì, è una rassegna che va avanti da diversi anni, dove noi abbiamo, diciamo, deciso di... Prima facciamo film, chiaramente, di tutti i tipi, tutti doppiati, cioè non eravamo entrati nel mood di pensare di fare i film in lingua originale. Poi, da diversi anni, da circa 6 anni, abbiamo cominciato a fare i film in lingua originale, giovedì, e chiaramente c'è un pubblico diverso, molto più attento secondo me, c'è la possibilità di vedere dei film ascoltando poi la vera voce degli interpreti, che è una cosa secondo noi fondamentale. Molti di noi che sono tra, chiaramente anche tra gli spettatori di questa rassegna, ormai non sanno più vedere un film che non sia in lingua originale, e sì. Quindi io questo credo che sia una buona cosa. Sì, sì, sì. Arrivando alla Bella Gente, come lo racconteresti in breve? Lo posso spoilerare? Vabbè, tanto è un film che comunque ha avuto una sua storia ed è stato visto. Sì. Deve raccontare sicuramente innanzitutto come un caso cinematografico, perché la particolarità di quel film è che ha avuto successo prima in Francia, cioè in Francia prendevano i premi quando in Italia era vietato proiettarlo sostanzialmente. Sì, sì. Non per una questione di sceneggiatura, ma per una questione che poi Ivano spiegherà nei particolari, diciamo, che era legata alla produzione del film. Sì. Quindi diciamo a delle sfide che erano in atto all'epoca sulla proiezione del film in Italia. Sì. Poi questa situazione col tempo si è sbloccata e il film poi è stato proiettato anche in altri diciamo posti, nonché nei cinema, e poi diciamo uscito il supporto che si può acquistare, quindi c'è un film fruibile che si può vedere. Per quanto riguarda la storia, senza spoilerare più di tanto, almeno secondo me racconta un po', diciamo, la caduta di una certa borghesia. Sì. Quella perbenista dove vuole difendere gli immigrati piuttosto che i deboli, tra virgolette, però appena è possibile se ne lava le mani, insomma, ecco. Sì, sì. Senti, come mai la scelta su questo film? Allora, la scelta di questo film è perché noi questo film l'avremmo dovuto fare all'epoca, cioè quindi quando, sì, quando diciamo in Francia era proiettato, in Italia non si poteva proiettare. Poi ci fu una proiezione, se non sbaglio, al Nuovo Cinema Palazzo, dove sia Ivano che... No, mi sa al Teatro Valle. Al Teatro Valle, ecco, era al Teatro Valle, sia Ivano che Elio Germano, che è uno dei protagonisti del film, subirono dei problemi, cioè ebbero dei problemi, diciamo, giudiziari proprio per questa proiezione che hanno fatto, e quindi saltò la nostra proiezione. Quindi diciamo che è da allora che tentavamo di farla, poi per diversi problemi con Ivano che era impegnato, non, questa cosa non si era potuta più fare, poi c'è stato tutto l'impegno di REC, diciamo i tempi sono stati questi, i tempi maturi per poterlo fare, e quindi ne abbiamo approfittato. Allora, visto che ci tengo a questa serata, facciamo così, che c'è nel tardo pomeriggio la premiazione del Microfono d'Oro, che quest'anno va alla trasmissione, per la sezione cultura, la trasmissione di cinema Tutta Scena Cinema di Radio Onda Rossa. Ritiro il premio, vengo lì e mi faccio la foto con te e Ivano. Beh, certo, comunque, grandi complimenti per il premio. Io non lo volevo dire perché non sapevo se tu l'avevi detto, lo sapevo perché ce l'avevo incontrati e mi avevi raccontato di questa storia. Sicuramente un premio, voglio dire, importante, perché diciamo lo danno, c'è persone che sostanzialmente non sono proprio amiche della radio, no? Mi sembra di aver capito. sì, no, non conoscevo neanche della storia di questo premio io. No, nel senso, cioè, in generale, diciamo, un premio molto, tra virgolette, burocratico, giornalistico, quindi sì, un riconoscimento, sì, diciamo, importante, secondo me, sì, perché sì, viene sì, sì, fuori da, diciamo, da un altro circuito che non è il nostro, no? Sì, sì. Quindi, penso che sia molto importante riuscire ad affermare l'importanza di questa trasmissione, del lavoro che tu fai alla radio per tutti gli amanti del cinema, del teatro, della cultura. Bene, bene. Allora, festeggiamo insieme. Un abbraccio e ci diamo appuntamento a venerdì 8. A che ora è la proiezione? Diciamo inizio proiezione intorno alle 20:30. Noi abbiamo scritto 20:30, però insomma, diciamo al massimo alle 20:45 inizia il film. Perfetto. Ivano ci raggiungerà dopo, siamo rimasti d'accordo che ci raggiunge per fine proiezione per parlare con il pubblico. Bene, la bella gente di Ivano. Diciamo, sì, troppo, sì, tardi, certo, non possiamo, certo, iniziare troppo tardi, quindi invito la gente, quelli che vogliono venire a vedere il film, a non arrivare alle 9:30, perché rischio di vedere un film che è già iniziato. Bene, allora la bella gente, Ivano De Matteo, Centro Sociale Occupato Ricomincio dal Faro, venerdì 8 giugno, un abbraccio e ci vediamo lì. Sì, chiaramente ingresso gratuito, questa è una cosa che è importante. Bene, okay. Ciao. Okay. Ciao Federico, un abbraccio. Questo è lo spazio cinema su Radio Onda Rossa, con interviste su film, festival e rassegne in forma registrata. Ogni giovedì dalle ore 14 l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.